ci dice cuore denari in brasiliano, in brasileiro? Coração e dinheiro. Bellissimo. Coração e dinheiro. Facciamo rete, stiamo bene insieme. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Abbiamo i nostri concorrenti che avranno a disposizione 100 secondi per prendere tutto quello che riescono a portare alla cassa e poi a portarselo a casa. Via! Partito! Si è diretto subito al reparto computer. Due Xbox nel cestone. Lo vedo, mancano 30 secondi esatti. Sta ritornando verso la cassa, ha le mani piene. Cara la mia Nicoletta, magari è una giornata di shopping, anche sì, ma noi non siamo certo i tipi che farebbero il pieno di oggetti di tecnologia come concorrenti di questa gara piuttosto strana indetta da una nota catena. Eccola che starnutisce, sei a posto? Sì, non ho starnutito, l'hai recuperato? L'ho bloccato. Allora, questa corsa all'oggetto del naso, saranno soldi? O tasse o equi. Non dire questa parola perché questa mattina non va bene. Allora, tornando al nostro argomento, noi ci accontenteremo di molto meno, ma confessiamolo, perché sono settimane che stiamo dicendoci a vicenda che sarebbe anche giunta l'ora di comprarci un tablet. È vero, ma ecco che proprio ora che c'eravamo quasi decise arriva una notizia che potrebbe farci cambiare idea. Eh sì, perché proprio ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un provvedimento che rende più cari i tablet, gli smartphone e praticamente tutti i dispositivi elettronici più diffusi. Pare che sull'acquisto di un nuovo tablet o un nuovo smartphone potremmo dover sborsare circa 5 euro in più, ma l'aggravio supererebbe i 30 euro per l'acquisto di televisori o sistemi video con memoria. Però Daniele da Treviso scrive subito: sì, vergogna, ancora tasse. No, si sbaglia il caro Daniele, perché Deborah mi ha detto: Nico, mi raccomando, non parlare di tasse perché non possono essere definite tasse. In realtà cambiamo il nome. A me hanno raccomandato altrettanto gli ospiti che vi presenterò tra poco. In realtà non parliamo di una nuova tassa, ma di quello che viene definito un equo compenso. In pratica, lo dicevi anche tu nelle anticipazioni, si paga la possibilità che questi strumenti ci danno di copiare, archiviare e riprodurre contenuti coperti da diritto d'autore, come la musica e i film. Però se uno non copia e non archivia? E stamattina cercheremo di vederci più chiaro. Una cosa è certa, si chiamerà anche equo, ma questo compenso non piacerà a tutti coloro che ormai vivono connessi sempre in rete, che di uno smartphone o di un tablet non potrebbero più fare a meno, costi quel che costi. E a proposito di costi, vi anticipiamo anche quello che sarà il tema della seconda parte della trasmissione. Pensiamo ad internet che ci fa pagare anche un prezzo, cambia un po' il nostro stile di vita, perché sicuramente la rete apre, crea diverse possibilità, perché tutto è a portata di un click. Internet e la rete non dicono mai di no, e questo spiega perché alla rete è così difficile rinunciarci, e perché la rete invade un po' i nostri spazi privati, le nostre relazioni, il nostro tempo. Voi come vivete il rapporto con la rete? Diteci che cosa cercate, se e come la rete vi soddisfa e quanto tempo occupa della vostra giornata. Ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, con un occhio particolarmente attento agli adolescenti, con il professor Mencacci, psichiatra del Fate Bene Fratelli di Milano ed è grande esperto anche per le dipendenze, metto tra virgolette, su internet. 800 24 00 24, se volete anticipare i vostri interventi. Una signora va in vacanza in montagna. Una mattina scende al laghetto vicino all'hotel e noleggia da un tipo del posto una barchetta, con l'idea di leggersi un libro in santa pace in mezzo al lago. Quando è là, le si avvicina una barca con un vigile del luogo che le dice: «Signora, devo farle una multa per pesca di frodo». La signora, un po' stupita, risponde: «Ma io sto leggendo un libro». Il vigile: «Ma questa è una barca, e lì c'è una canna e un retino». la signora. E allora? E il vigile dice: sono strumenti con i quali lei potrebbe pescare, per cui devo multarla. La signora dice: d'accordo, faccia pure. Io invece la denuncerò per stupro. Il vigile è esterrefatto: ma io non l'ho neanche sfiorata. E la signora: sì, ma ha tutti gli strumenti per farlo. E ci siamo permessi un po' di umorismo oggi in apertura di puntata, e vedo che qua in studio oggi c'è grande allegria. Gianfranco Giardina, direttore del portale di tecnologia di Day.it, buongiorno, ciao. Ciao, buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Esperto di audio, video, elettronica di consumo. Allora, questa barzelletta l'abbiamo proprio rubata al posto di un utente sul vostro portale. Questa sì, me l'hai mandata tu ieri, quindi noi ne abbiamo immediatamente approfittato. Rende molto bene l'idea, ci aiuta a spiegare ai nostri ascoltatori che cosa prevede questo provvedimento che è stato pubblicato proprio ieri in Gazzetta Ufficiale. Allora, iniziamo con una definizione essenziale, poi approfondiremo. Noi teoricamente paghiamo la possibilità di copiare i file, musica, film e altri contenuti coperti da proprietà intellettuale. Sì, il consumatore ha diritto a copiare su altri device, su altre macchine, proprio per esempio farsi una copia su un CD per portare un disco in macchina, dei contenuti legittimamente posseduti, quindi acquistati direttamente. Questa copia non può essere ceduta a terzi, è prettamente per uso personale, di cui l'edizione copia privata, ed deve essere fatta nel rispetto delle misure di protezione anticopia. Per esempio, i DVD o i Blu-ray disc, che sono i contenuti video, sono protetti contro la copia, quindi di fatto il diritto di copia privata non può essere esercitato su questi supporti. Quindi ci sono alcuni limiti entro i quali ci si può muovere. Per ricompensare gli autori del documento arrecato da questa, al mancato guadagno, mi viene da dire, arrecato da queste copie, ammesso che poi questo ci sia, però è tutto da dimostrare, ma comunque per ricompensare gli autori, gli aventi diritto, le case discografiche, eccetera, eccetera, viene applicato un compenso a monte e, mi viene da dire, anche a prescindere di qui la barzelletta che abbiamo sentito, sulla possibilità che questa copia venga effettuata. E questo tenendo conto, dice prima il legislatore e poi tutte le commissioni che hanno stabilito questi compensi, tenendo conto delle medie di utilizzo e quindi del fatto che alcuni copieranno e altri non copieranno. Questo crea, insomma, di questo compenso, che dicevamo appunto non è una tassa, lo rende particolarmente odioso, antipatico. E infatti questo è un po' il principio che fa discutere, poi magari ne appunto approfondiremo anche i termini. Spieghiamo bene questa faccenda, che non si tratta di una tassa, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, proprio per il motivo che questo versamento aggiuntivo, poi vedremo in quali modalità viene effettuato, non va appunto all'erario, non va nelle casse dello Stato. Non va nelle casse dello Stato, viene raccolto dalla SIAE, che detratti i propri costi, che sono circa il 7%, e trattenuta una parte per determinati rischi che poi ridistribuirà più avanti nel tempo, però quindi diciamo fa cassa un po' la SIAE con questi soldi, ridistribuisce in parte agli autori editori, quindi associati SIAE, in parte a una serie di altre associazioni, per esempio dei discografici, degli artisti esecutori interpreti, secondo uno schema peraltro previsto dalla legge. Insomma, tu ci hai fatto l'esempio del CD che possiamo comporre per portare in radio, poi in realtà la rosa dei dispositivi su cui questo aggravio andrà ad essere caricato è molto più ampia. Luca Tremolade, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Eccoci. Allora, vorrei con te fare qualche cifra, vorrei raccontare qualche numero appunto per i nostri ascoltatori. Quanto ci costerà più o meno questo equo compenso e su quali dispositivi appunto verrà applicato? Andiamo domani in un centro commerciale. Contiamo che è un po' il concetto della guerra preventiva, no? Per cui hanno colpito e hanno preso tutti i prodotti a pioggia. Allora, si va dai, parliamo di smartphone e tablet che piacciono a tutti, dai 3 euro per quelli con la memoria da 8 GB, poi c'è Deborah che mi guarda con l'aria stralunata se dico 8 GB, però insomma sono quelli più piccini. Non farmi fare sempre della capra tecnologica. Lo sanno gli ascoltatori, l'ho già chiarito dall'inizio del ciclo di quarantenari. Siamo con le matite qui in studio. Nel senso, con la pietra, con lo scalpello stiamo incidendo sulla pietra praticamente. La BIC è troppo automatica perché c'è il clac. Andiamo avanti con questi 8 GB. Dai 3 euro con memoria da 8 GB fino ai 5 euro oltre i 32 GB. Comunque è una memoria molto ampia. Memoria bellissima, ampia. Però che cosa vuol dire sostanzialmente? Che prima erano 0,90 euro, e adesso sono di più, quindi sono soldi in più che tocca versare per prendersi uno smartphone. I tablet prima non avevano nulla e adesso invece hanno anche qui un prelievo, le chiavette USB fino a 9 euro, ti ricordate di quelle piccoline che si infilano, ecco, perfetto, ci fa anche il gesto, vedi, esatto, ce lo disegna anche. No, io uso le mani. Quanto per rappresentare, costa mediamente una chiavetta, appunto per capire in che proporzione, ma poi allora poi dipende dal se sono piccole, di solito le regalano le 16, io non volevo dirlo, l'hai detto tu, ma però sì, insomma, però io quelle 3-4 che ho me sono state regalate, 10, 20, 30 euro, ci sono varie, poi se vai sul terabyte già si arriva anche a 50 euro, ci sono anche le memorie di Stark per cui sono disegnate dal designer. Dai, quelle si arriva sui 100 euro, meravigliose, ma no, perché anche la più costosa, se andiamo su 50 euro se la gravi è di 9, comunque 9 non è poco, la proporzione non è affatto poco. E poi ci sono gli hard disk, anche questi 20 euro a modello, questo è per 1-2 terabyte, per intenderci 1-2 terabyte ci metti dentro tutta la tua vita, sì, anche la vita mia, dei figli, ci mettiamo dentro tutto. La cosa più divertente invece è quella delle televisioni, prima non c'era nulla, adesso c'è un doppio aggravio di 4 euro, perché non si paga solo la televisione in sé, guardo giardina, ma anche la memoria che hanno dentro, per cui se hanno dentro un hard disk e lo devono avere per registrare i programmi, anche lì c'è un altro balzello. In particolare 4 euro per tutti i TV con la funzione di registrazione, ma normalmente il TV non ha una memoria interna. Infatti quindi stavo è capace di registrare e pago 4 euro. In più devo metterci o una chiavetta o un hard disk per registrare, e quindi pago anche sull'hard disk e sulla chiavetta, visto? Quindi proprio è una doppia imposizione. Infatti gli ascoltatori stanno già sostenendo, appunto, sarà anche che non la possiamo chiamare tassa, però di fatto la possiamo considerare appunto alla stregua, Gianfranco. C'è un piccolo aspetto, le cifre che stiamo dicendo sono quelle che vengono applicate a monte al distributore. Se il distributore, come con i margini che ci sono in elettronica di consumo sicuramente dovrà fare, ribalta a valle questo prezzo, il consumatore vede questo prezzo più IVA, perché aumenta il valore. Ah, quindi l'IVA verrà accesa. Non è una tassa, aumenta il valore del bene, quindi viene applicata l'IVA del 22%, più il ricarico di tutto il canale distributivo, che evidentemente avrà un prodotto che vale di più e ricaricherà percentualmente più. Quindi queste cifre sono le cifre minime, perché poi in realtà quello che il consumatore vedrà potrebbe essere molto più alto. La diseconomia sarà paese che vai, smartphone che trovi. Infatti qualche ascoltatore sta già sollevando la questione. Certo. No, tra l'altro poi invece il commercio online verrà lo stesso colpito, se io voglio bypassare la catena commerciale nota e andare a fare l'acquisto. Certo, mi basterà un fornitore esterno. Basta che acquisto da un fornitore esterno e pagherò meno. Tra l'altro Francia e Germania hanno una tassa simile all'equo compenso. Io la chiamo tassa perché poi hanno una tassa simile all'equo compenso. In altri paesi si applica una percentuale sul prezzo e ci sono molti paesi che non hanno nulla. Questo che cosa vuol dire? Che già abbiamo l'IVA al 21. Se poi andiamo, dove andranno? Andranno tutti in Gran Bretagna a comprare, diciamolo subito, cioè la Gran Bretagna sarà il paese dove costerà un po' meno. Ma io dico che compriamo anche in Italia, non dobbiamo inventarci niente, il compenso per copia privata esiste da molti anni, aveva delle determinazioni più contenute e una soggettazione di prodotti più ridotta, però esiste già. Cosa abbiamo visto in questi anni? Abbiamo visto semplicemente che alcuni rivenditori, quelli che hanno deciso di essere alla luce del sole, hanno preso prodotti di provenienza italiana e quindi in ottemperanza a tutti i pagamenti si ha. E invece chi tra i rivenditori ha cercato di essere più competitivo, di rimanere competitivo rispetto ai paesi esteri, ha importato come rivenditore, quindi molto piccolo e molto invisibile anche ai controlli della SIAE, ha importato direttamente dall'estero questi prodotti, non ha mai pagato SIAE e si è ritrovata con un vantaggio competitivo sul mercato, e di conseguenza in realtà i casi sono due: o si alimenta il commercio dall'estero, in cui un consumatore italiano ha tutto il diritto di comprare da un sito estero all'interno della comunità, quindi non deve render conto a nessuno, o addirittura si alimenta quello che potremmo chiamare contrabbando, no? Da parte dei rivenditori meno trasparenti, un po' più opachi. Roberto da Uine ci scrive: un'altra tegola per i commercianti italiani, tutti compreranno su internet da parte stranieri, voglio vedere come farà il fisco italiano. Suicidio. Un altro ascoltatore a proposito della SIAE, Emiliano da Roma, e ci scrive: sono un autore iscritto alla SIAE, questo equo compenso ricompenserà non equamente i soliti noti. No, c'è anche invece chi mi dice che io sto facendo terrorismo fiscale fiscale su pochi spiccioli, vabbè. Io vorrei capire, ma non so se questa è un'informazione nota o meno, che origine ha questo provvedimento? Perché Franceschini ha deciso appunto di inventarsi questa cosa? Legge del diritto d'autore del 41, è da lì che parte tutto. Beh, tutti gli emendamenti fatti, c'è una direttiva europea che istituiva la possibilità per gli stati membri di prevedere un'eccezione di copia privata, si chiama appunto eccezione, e gli stati che l'hanno prevista devono chiaramente prevedere anche un compenso. Dopodiché questa direttiva nasce oramai molti anni fa, è stata per la prima volta recepita nel 2003 dal ministro Urbani dell'epoca, e i primi compensi assoggettavano soprattutto CD e DVD vergini, tanto per intenderci, mercato che è praticamente sparito dall'Italia. Esatto, infatti, perché adesso, adesso che nessuno poi più masterizza, chiaramente hanno trovato un po' una modalità. Quindi c'è un costrutto, diciamo, di legge, non è che sia una cosa che nasce oggi per fare un dispetto a qualcuno, in sostanza, di certo c'è. Quello che insomma rende la cosa molto discutibile è, al di là delle valorizzazioni, che sono arbitrarie, perché dire 5,20 euro su uno smartphone. Ma è poco o è tanto? Quando è tutto arbitrario, quando è tutto statistico, su base, cioè non ha un costrutto vero e proprio, no? E quindi se fosse stato 12 euro o fosse stato 3,20 euro, sarebbe stato accettabile, ma discutibile. Certo. Ecco, allo stesso modo, quindi su questa base di arbitrarietà si prelevano quelli che alcune fonti dicono saranno 150 milioni di euro, che probabilmente arriveranno dalle tasche degli italiani, maggiorate, come dicevamo, di IVA e tutto il resto. Se poi qualcuno li considera pochi spiccioli, io dico che 20 euro su un hard disk da 2 terabyte che costa 60 euro, 70 sì, infatti, euro, la proporzione è una percentuale che non può essere certo, come dire, come auspicherebbe sia il ministero, totalmente a carico del produttore. Probabilmente, cioè, insomma, qualche conseguenza sulle scelte di acquisto e consumo da parte dell'utente finale ci sarà. Sentiamo Stefano da Roma. Volentieri, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie. Intanto tante domande che avevo prima le avete già risolte, per esempio il fatto di poter acquistare online certe cose, il fatto che ci sia una vistosa sproporzione fra il costo dell'oggetto e la non tassa applicata, oltretutto sulla non tassa, sul quale andremo a pagare anche il 22% dell'IVA. Quindi è vero che paghiamo la SIAE, ma con la SIAE paghiamo anche lo Stato italiano, che quindi non è proprio esente da colpe. La mia domanda era questa: questo vale perché la possibilità del privato di fare una copia lecita di un suo diritto d'autore già pagato? Perché il reato di pirateria, diciamo così, informatica, rimane vigente a tutti gli effetti. Cioè, questo non è che va a sanare la pirateria informatica, la paghiamo, però in qualsiasi caso il reato rimane. Grazie Stefano. Gianfranco Giardina a Nuiva. Assolutamente sì, ed è una cosa che va detta in maniera molto chiara, perché anche nei commenti agli articoli, anche dei quotidiani, ho visto molta confusione da questo punto di vista. Non è che perché si paga questo compenso allora si scarica e si copia, assolutamente no, si paga questo compenso solo per copiare i dischi che si sono già comperati o i contenuti che si sono già comperati. In un'economia che sta andando sempre di più, e anche le notizie arrivate proprio ieri lo dicono, verso lo streaming, quindi una situazione in cui io ad abbonamento pago già gli utilizzi dei miei contenuti, sembra una misura fuori dal tempo. Cioè, Luca, vorrei chiederti un commento su quelle che potrebbero essere appunto le conseguenze anche a livello di grandi distributori appunto di questi beni, di questi strumenti. Secondo te qualcuno sceglierà di incaricarsi di questo balzello? Diciamo, non chiamiamola tassa, non lo possiamo chiamare equo compenso perché mi fa un po' sorridere. Diciamo che sarebbe una notizia meravigliosa, ma di fatto non avverrà assolutamente così, anche perché i bilanci dell'elettronica di consumo non sono rosei dal punto di vista dei margini, per cui quello che accadrà è che scaricherà, perché già la guerra dei prezzi danni, insomma, assolutamente. Scaricheranno sul consumatore finale, come giusto che sia. Ma il tema è che c'è un sottotesto da leggere, cioè il sottotesto qual è? Attenzione, non è una tassa, noi tassiamo telefonini, smartphone, tutti questi oggetti che funzionano, che sono di moda, che sono molto acquistati, perché? Per dare soldi alla cultura. Questo un po' è il disegno di uno vaso comunicante. E su questo mi permetto di, insomma, di ragioniamo su questo concetto, perché abbiamo visto e ci ha raccontato Giardina che questi soldi non vanno direttamente agli artisti, mm-hmm. o vanno solo in parte direttamente agli artisti. Ma vanno in un calderone sia. Vanno in un calderone orrendo. Allora, la domanda è: abbiamo la possibilità con le tecnologie di dare i soldi agli artisti? Sì. Mm-hmm. C'è un cambiamento, certo, che poi magari ne parliamo anche più avanti, che è quello dello streaming, che è la possibilità di registrare sul tuo device chi stai ascoltando, per cui io pago la cultura sulla base dell'uso. Ascolto quel cantante, chiaramente l'utente che questo uso fa si può facilmente rintracciare, esatto, intercettare, per cui non sarebbe difficile. Quindi, ma cioè, pensa anche come sarebbe bello, cioè io c'è cosa anche faccio? Il secondo aspetto, che i proventi vanno al copiato, e non su base presuntiva, statistica, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo due vantaggi: paga chi copia e riceve il copiato, quindi sarebbe perfetto, è perfetto perché già si può fare, non si vuol fare perché in questa arbitrarietà ci stanno dentro chiaramente mille decisioni, certo, che fanno che tra fanno l'altro comodo. A me vengono in mente i cantanti, fa il musicali, no, ma quale in questa rosa di copiati quali altri soggetti ci sono, tanto per far capire anche il tema di cui stiamo parlando stamattina agli ascoltatori? Stampa, editoria, anche ecco, perché per no esempio. Perché non posso copiarmi direttamente sul file tutto il Sole 24 Ore, ma ci può sì, essere ma non gli riceve articoli poi di Luca Tremolada ad esempio, che sono sempre avvincentissimi, oppure anche smetti oppure anche l'audio video, i film, per cui insomma tutto ciò che è audio video, però dentro ci possiamo mettere anche file scritti, certo, che male non sì, fa. Beh, noi potremmo copiarci, il problema è che poi tra i percipienti di tutti i proventi ci sono fondamentalmente tutti gli autori, certo, registrati SIAE, gli interpreti registrati alle varie società che ne tutelano i diritti e le case discografiche e fonografiche, perché ancora si parla di fonogramma, esatto, e videogramma, processi produttivi, fonogramma e videogramma. Non è previsto alcun eco compenso per ascoltare i mercati. Brava. E adesso è arrivato il tempo, andiamo. Esatto, no, tra l'altro volevo anche magari ai nostri ascoltatori invitiamoli ad intervenire per capire se queste novità cambierà le loro scelte, no? Se avevano già immaginato di ampliare la loro dotazione tecnologica ma adesso magari ci ripensano, la ridurranno, no, questa loro idea. Cuore e denari. Morticia sta cercando di dirci qualcosa. Parla, mano. Smetti di balbettare, che cosa? Caro, ci sta dicendo che c'è qualcuno alla porta. Ah, tu e mano. Che intesa perfetta. Connessi, abbiamo il mondo a portata di click, i vantaggi sono tanti, ci sono tante buone ragioni per collegarsi, chattare, navigare, per raccogliere informazioni, organizzare un viaggio, mantenere le relazioni, fare acquisti, risparmiando a volte tempo e denaro, ma come sempre c'è anche l'altro lato della medaglia, perché i dispositivi tecnologici infiammano un intenso utilizzo delle mani e delle dita, attraverso le quali consultiamo i nostri mini PC da tasca, possono provocare disturbi a nervi e tendini, slatentizzando, provocando vere e propri disturbi, come a dire tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, un proverbio che calza a pennello per la WhatsAppite, che dopo la Nintendite degli anni 90 causata dall'uso della famosa console, la Wiite del 2006, si guadagna il podio del disturbo 2.0. quindi della salute delle nostre mani e delle nostre dita impegnate a digitare, a cliccare, parleremo nella seconda parte della trasmissione con la dottoressa Simonetta Odell, chirurgo della mano Alpini di Milano. Notate i vostri interventi al nostro numero verde e nel frattempo fate un semplice autoesame delle vostre mani, mandateci un sms al 349-238-6666, probabilmente userete il pollice per scrivere, oppure componete il nostro numero verde 800-24-0024, in questo caso è il dito indice essere messo alla prova, o ancora scriveteci una mail a cuoredenari@radio24.it, in questo caso cercate di capire che cosa succede quando muovete il mouse con la vostra mano. Quindi tutti pronti, non state, come si dice, con le mani in tasca, chiamateci. Una monetina per te, un'altra monetina pure a te, così fanno tre, una monetina per questa serata che non può finire. Luca Tremolada del Sole 24 Ore questa mattina con noi per parlare dell'equo compenso insieme a Gianfranco Giardina, direttore di dday.it. Un ascoltatore chiede, Giancarlo, su Twitter, da quando scatteranno gli aumenti? Allora, formalmente da ieri abbiamo il provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Gianfranco Giardina, ma qualche giorno di, come dire, assestamento tecnico? Va in vigore 10 giorni dopo la pubblicazione, ma il decreto stesso prevede che l'entrata in vigore operativa dipende fondamentalmente dalla SIAE e dalle tutte le procedure che la SIAE deve mettere in pista per iniziare a raccogliere. Quindi diciamo che compensi. Se oggi andiamo da qualche rivenditore, compriamo lo smartphone e vediamo già l'applicazione appunto dei 5,20 euro su questo dispositivo tecnologico, Luca Tremolada, il rivenditore non è autorizzato da oggi ad applicarlo. No, però sappiamo che accadrà, ecco. Sì. Sono poche certezze nella vita, ma questa non si sfugge. Allora, 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Gera già pronto, poverino? Sì, Ferruccio che ci chiama dalla provincia di Treviso, e poi abbiamo Davide da Bergamo. Ferruccio, buongiorno. Buongiorno a voi e ai vostri radiorespiratori. La cosa che volevo dire, ma per me, a parte che è una tassa, ma li vorrei chiedere se questi soldi, quanti in percentuale vanno a chi ne ha veramente il diritto, cioè agli artisti, e quanti invece servono per chiudere quel maledetto buco o voragine della SIAE. Che è un po' il tema che abbiamo già commentato. Ritorna prima, anche infatti. Via, esatto. Chi vuole rispondere? Gianfranco Giardina. Allora, stiamo conducendo un'inchiesta molto dettagliata che uscirà nei prossimi giorni, con tutte precisamente le percentuali step per step, perché sono tanti gli step, e i criteri con i quali vengono ridistribuiti. È una situazione molto complicata. Sicuramente la SIAE preleva il 7% come propri costi, l'abbiamo detto, ma le associazioni a valle prelevano poi delle altre percentuali, il 10, il 15 della loro parte spettante, e quindi tanto va, diciamo, in burocrazia. Certo. Qualcuno dice burocrazia di garanzia, perché serve, poi bisogna discuterne. In realtà il fatto è che se noi vediamo il bilancio di SIAE, per esempio, che è stato rilasciato quello del 2013 in questi giorni, la SIAE chiude con un piccolo attivo, in realtà a copertura di una gestione tipica che è largamente in passivo, quindi ha un passivo di circa 30 milioni della gestione tipica, che viene recuperato grazie a proventi finanziari. Cioè, in realtà la SIAE tiene i soldi in cassa per molto tempo prima di ridistribuirli. La SIAE stessa dice di avere una rendita quasi del 4% sui propri investimenti finanziari. Si fa presto a capire se tanti milioni stanno in cassa, certo, al 4% quanto rendono, e quindi in realtà la SIAE è anni che sta recuperando i propri bilanci grazie alla gestione finanziaria, e quindi se quei soldi non dovessero transitare o non dovessero fermarsi più per così tanto tempo nelle casse della SIAE, che poi vengono in larga parte distribuiti, ben inteso, però se non si fermassero lì non creerebbero questi proventi finanziari. Certo, adesso Luca ti faccio commentare questo aspetto, però volevo chiederti anche un'altra cosa. È chiaro che se io vado a comprare la chiavetta USB o lo smartphone pago questo equo compenso una tanto, ma mi stavo chiedendo un po' che cosa potrà succedere magari per aziende che hanno bisogno di rinnovare frequentemente il proprio parco tecnologico per esigenze appunto di qualunque tipo, professionale, commerciale, no? Quindi qua magari qualcuno ci penserà veramente due o tre volte. No, prima di, no? No, per un'azienda, diciamo che un'azienda che dovrà sostituire migliaia di personal computer, non si porranno il problema di 1 euro 50 centesimi, 2 euro, tratteranno direttamente con il fornitore, certo, e vedranno di trovare una via d'uscita, anche perché parliamo di grandi quantitativi di tecnologia e grandi sconti. Il problema è sull'utente finale. Quindi, cioè, come dicevo, la metafora è qui, si va a colpire il ragazzino che si compra lo smartphone per finanziare la cultura. Quello che volevo dire sull'ascoltatore è che qui il tema non è quello di fare i conti in tasca alla SIAE, ma quindi è quello di porsi una domanda: siamo sicuri che il modello SIAE funzioni per gli artisti? Cioè, siamo sicuri che questi tipi di baracconi, di strutture molto burocratiche, e un po' di burocrazia ci vuole per ridistribuire questi soldi, siano ancora oggi in linea con le potenzialità della tecnologia? Io sono convinto di no. Io sono convinto che in questo momento, anche per il cambiamento dei gusti degli utenti, cioè è finita un po', sta finendo quell'era dove c'era il ragazzino che si scaricava le canzoni sul computer, se le scaricava sul telefonino e poi se le ascoltava. Stiamo entrando in una nuova fase, si parla di streaming, quindi sia di ascolto e di fruizioni di video, del cinema, della musica attraverso internet, che spariglia completamente questo modo di intendere il diritto d'autore, e su questo mi spiace, ma non c'è un progetto. Diciamo che il ministro Franceschini dovrebbe mettere mano ad un discorso un po' più complessivo, no? Avrebbe potuto leggere anche semplicemente il rapporto del suo predecessore, che era Bray, che aveva fatto una ricerca e aveva scoperto che all'incirca solo una persona su 10 fa la copia privata. Mm-hmm. Sì, va anche detto che se noi analizziamo proprio cosa fanno i nostri figli, cioè i ragazzini con gli smartphone, con i tablet in mano, quando vogliono ascoltare una canzone, banalmente vanno su YouTube. YouTube chiaramente assolve i diritti d'autore, o comunque i video musicali vengono messi su YouTube in revenue sharing, cioè la casa discografica guadagna poi chiaramente sulla pubblicità che gira su quel video, quindi risulta abbastanza singolare pensare a una cosa simile. L'altra osservazione che mi viene da dire è che tutte le tante attività che Nicoletta ha elencato prima, che potremmo fare per avere magari qualche problema alle dita con lo smartphone e con i tablet, sono tutte attività che non riguardano il diritto d'autore, quindi messaggiare, quindi vedere infatti il traffico, infatti un ascoltatore sugli SMS pure chiedeva. Io continuo a sentir dire senza i nostri contenuti da parte degli artisti sarebbero soltanto dei tristi pezzi di ferro. Io dico no, si fanno tantissime cose che non sfiorano neanche lontanamente il diritto d'autore. Forse gli autori non lo fanno, ma sicuramente io per esempio non uso sentire musica sul mio smartphone, ma sono sempre collegato a Twitter, certo. Anche in questo momento esatto. Sto guardando cosa gli ascoltatori ci scrivono su Twitter. Ma, cosa vi stanno scrivendo? Stai interagendo su sto interagendo, sì, mi dicevano che non è vero. Come che, siete sempre che non è vero che il bilancio sia in difficoltà perché è inattivo, ma come ho chiarito poi successivamente certo. È inattivo solo per proventi finanziari. Cuore e denari. Vabbè, c'è un ascoltatore che non so se sia ironico o meno, ma dice: io sono sordo e pago lo stesso l'equo compenso. Luca Tremolada. Certo che paga. La legge non guarda i problemi perché fisici. Perché lei dice: a me della musica non mi importa. Noi paghiamo tutti per un servizio, per un'opportunità che, esatto. Come ci stanno dicendo di i nostri esperti, possiamo disporre. Sempre meno persone utilizzeranno. È sulla fiducia. Noi abbiamo fiducia che tutti quanti utilizzeranno i contenuti, la musica e così. Poi se andiamo a vedere non è così, però chi se ne importa. Però insomma sul potenziale la SIAE naturalmente punta. C'è anche un altro tema, poi gli ha della SIAE, sono tutti gli aventi diritto, non vorrei mettere al centro la SIAE, che non importa. Intermedia però per esempio io non riesco a capire, per quanto mi metta lì e cerchi di mettere tutti i miei neuroni a attivarli su questa cosa, perché per esempio i dischi video, quindi tutti i DVD e tutti i Blu-ray sono protetti contro la copia, non li posso copiare. Perché non si può fare altrettanto? Non si possono copiare, però io poi paghiamo il compenso per copia privata e i produttori di questi videogrammi sono tra i percipienti dei compensi per copia privata. Ecco, questo dà un po' la dimensione. Certo. Se chiedevano a noi, non arrivavamo a questi punti. Davide, allora, buongiorno. Sì, esatto. Non ci interpellano. Davide, buongiorno a lei. Davide si è seccato e è andato. Ha fatto Davide. Bene. Andiamo a Michele dalla provincia di Lucca, allora. Michele, ma si sono distratti tutti? O è Paolo Corleoni che stamattina ci sta boicottando le telefonate, che potrebbe anche essere, conoscendolo. Chi abbiamo, Davide o Michele? Tutti e due? No, io Paolo sento, ma probabilmente c'è qualche questione legata, non so, al collegamento telefonico. Il cloud, chiede Lorenzo al 349-238-6666, traduci per queste due povere derelitte della tecnologia. Se dico la nuvola, che siamo così, non andiamo da nessuna parte. Allora, il cloud è semplicemente la tecnologia chiamata la nuvola, di solito lo spiego così, è la nuvola. Comunque sono tutti contenuti che vengono distribuiti via internet e per cui arrivano sul nostro cellulare o sul televisore o sul tablet. È il famoso, prima ho usato la parola streaming, no? Per cui cosa succede? Io non ho la canzone sul mio cellulare, ma connettendomi a internet grazie al cloud riesco a sentire la canzone. Certo. Ecco, il cloud è una tecnologia di trasmissione, per cui in questo caso non solo non c'entra nulla con questa misura, ma è il grande assente di tutto questo piano. Cioè, abbiamo appena detto che tutto il mondo si sta spostando verso servizi cloud e questi servizi non sono assolutamente contemperati dalla legge. Un'ultima domanda, poi vi salutiamo. Allora, abbiamo capito, facciamo finta di aver capito in che cosa consiste questo equo compenso, che origine ha, chi e come e perché va teoricamente a remunerare. Voglio capire, domani andiamo dai nostri rivenditori in un grande centro commerciale, in un negozio appunto di questi strumenti, voglio capire se sul cartellino del prezzo io vedrò questa maggiorazione chiara e trasparente, Luca Tremolata. Non ancora, ma per esempio... No, adesso a prescindere dai tempi che abbiamo indicato prima sull'adeguamento SIAE, eccetera. Ma no, andremo in questa direzione, cioè succederà quello che ha fatto Apple nel 2009. Vorrei capire se qualcuno ci farà un po' di ricarico ulteriore per dire, insomma, non abbiamo questo aggravio. Allora, se va tutto bene, quindi se loro ottempereranno all'antitrust, succederà questo, che noi avremo nel prezzo il prezzo stabilito dal produttore più le tasse. E dentro alle tasse ci sarà tutto il la maggiorazione. Certo. In questo momento, per esempio, Apple già oggi, e farà anche domani, quando andiamo sull'Apple Store e proviamo a comprare un iPhone, ci dice che il prezzo dell'iPhone è quello, 699, 729, quant'è, poi ci mette l'IVA e i diritti per copia privata. Quindi proprio vengono aggiunti e esposti. È già cristallizzato, la voce. Apple fa già così. Altre non lo fanno. In Francia dal primo di aprile è diventato obbligatorio esporre come visible fee sullo scontrino il compenso per copia privata. Ci sono indicazioni dall'Europa che dicono che darebbe indicazione di dar così. Pochi giorni fa sono uscite le raccomandazioni dell'antitrust per la nostra nazione, la nostra authority antitrust, che si è raccomandata come modifiche proposte ai testi di legge di emendare o meglio aggiungere alla solita legge 1941 sul diritto d'autore l'obbligo di esporre e di informare il consumatore. Quindi lì ci arriveremo. È chiaro che questo non piace agli autori, perché così possono continuare a dire che il consumatore non è della partita, che è un fatto tra comparti industriali, che il consumatore non c'entra. Infatti, tra l'altro, non piace neanche la distribuzione, perché mettendo sullo scontrino questa cifra è come dire si porta la colpa. Però sarebbe anche molto più facile in questo modo controllare chi vende prodotto, come dire, in maniera trasparente, chi invece un po' più torbido. E non piace neanche Franceschini, perché di fatto era stato detto che questa tassa, questa imposizione avrebbe colpito l'utente finale. In realtà, con questo trucchetto, cosa succede? Che io il mio telefonino lo metto a tot euro, poi il resto sono tasse che dipendono dal paese. Ma poi le accise sui carburanti. Un ascoltatore che forse ha perso qualche lettera per strada dice: l'eco prelievo interessa tutta l'Europa, invece l'eco compenso. Allora, ci ritorneremo magari più avanti su questo argomento, monitoreremo un po' che cosa succede anche tra le grandi insegne. C'è qualche altra scuola, ma credo che l'ascoltatore voglia sapere... C'è Christian? Sì, ma forse ha un problema da affrontare con te nella parte di cuore. È già mia, Christian, è già mio! È questo che fantastico. Io non voglio prenderlo. Va bene. Sentiamo allora, magari, ma chissà se loro due ce l'hanno la WhatsAppite. No, è perché perché lui è un patito del Nintendo, lui ne ha un altro di problema. Io ho moltissimi altri problemi, ho drammatici altri problemi, però non ho quello. Le mani funzionano bene. Tutte bene, da pianista. Anche delle belle mani, devo dire. Visto? Adesso non esagerare con i complimenti, perché sennò chi lo mi ha pagato, più? Certo. Perfetto, allora Gianfranco, tra l'altro salutiamo Gianfranco Giardina, come monitorerete? Come verrà, come dire, applicato tutto? Ma adesso più che altro passiamo alla seconda fase, quindi cerchiamo di capire, lo stiamo facendo con molto impegno, come poi questi soldi vengono ridistribuiti. Vengono detti troppi luoghi comuni, si mangia tutto SIAE, piuttosto che invece va tutto agli autori giovani. Non sono vere nessuna delle due cose. Bisogna andare a vedere dentro, spaccare, trovare, e si trova un mondo molto complicato. Io dico troppo complicato, perché in questa complicazione si può nascondere benissimo poi di tutto, però ne parleremo più avanti. Portale della tecnologia di day.it, il direttore Gianfranco Giardina, grazie anche a Luca Tremolata, il Sole 24 Ore, nostro uomo tecnologico del giornale. E troppo non so. Buoni. Nicoletta. Allora, noi siamo pronti. Intanto, grazie. Ci avete veramente chiarito le idee. Abbiamo capito. Anche i nostri ascoltatori ci scrivono che i nostri esperti sono stati molto chiari, nonostante il tema un po' spinoso, che non accontenta poi in fondo nessuno. Nella seconda parte della trasmissione parleremo delle nostre mani e parleremo di nuovo di rete, che in qualche modo ci dà tante opportunità, ma cambia un po' la nostra vita, a volte ci ingabbia. Quindi 800 24 00 24 se volete parlare della salute delle vostre mani quando utilizzate il pollice per digitare i messaggi, come rispondono, ma anche se volete capire se vostro figlio sta diventando troppo attaccato alla rete, quali sono i segnali. Due esperti a vostra disposizione a partire a questo punto da dopo il GR. Cuore e denari. E a proposito, quanti messaggi WhatsApp avete mandato stamattina? Quante mail avete scritto? Insomma, come stanno le vostre mani? Perché a digitare, chattare, a rimanere connessi, a fare dei click, le mani si usano parecchio. Facciamo un piccolo test. Provate a piegare una ad una le dita. Si flettono e si estendono facilmente o a scatto? Provate ad afferrare il mouse o prendete il vostro smartphone e stringete. Tutto ok o avvertite un leggero indolenzimento? Il vostro pollice è un po' impacciato? Avete l'impressione che abbia all'interno un filo di metallo che impedisce di afferrare bene gli oggetti? O avvertite alla base del dito un fastidioso bruciore? Le dita formicolano? Tutte o solo alcune? E quali in particolare? 800 24 00 24 con il vostro dito indice componete il nostro numero verde. Naturalmente potete scriverci anche un messaggio e in questo caso molti di voi useranno il pollice. 349 238 6666, questo è il nostro numero verde. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Simonetta Odella, chirurgo della mano al Pini di Milano. Fa anche rima. Buongiorno dottoressa, bentornata. Nicoletta, buongiorno, grazie. Mi scuso, ho un po' poca voce purtroppo in questi giorni. Della serie Deborah, che anche i medici si raffreddano e si ammalano. Avremo anche per lei, dottoressa Odella, qualche rimedio, vedrà, magari nel corso della trasmissione. Grazie molto, Nicoletta, ne avete sempre di ottimi, quindi poi, vi ringrazio. E poi c'è uno spray, anche a base di acido ialuronico, che è molto utile per le corde vocali. Ricordo che me l'aveva consigliato proprio un foniatra. Lo usiamo anche noi, l'acido ialuronico per le dita. Ecco, e a proposito, a proposito di dita, abbiamo subito Christian da Milano che ci corteggia da prima del GR. Ma quindi, fammi subito vedere allora. Christian, buongiorno. Posso tornare se Christian? Pronto? Buongiorno Christian, eccoci. Buongiorno. Eccoci qua, Christian. Buongiorno, allora. Vada. Sì. Vado, io mi occupo di community manager per social network e comunicazione attraverso questo eccezionale strumento. Poi sono uno dei primi italiani su Facebook, quindi dall'inizio del 2007, quindi parliamo di tanti anni fa. Adesso è diventato anche una parte del mio lavoro, sono anche smart worker, quindi il mio tablet è il mio ufficio. Adesso mi scatta il campanello d'allarme perché dico, gli occhi, la vista lo sapevo, ma adesso anche le mani no, anche perché io stamattina ho già fatto 3 post su Instagram, 3 su Facebook, ho risposto a eccetera, quindi volevo capire quanto è impattante per chi ci lavora e certo. Se ci sono, come per tutti gli altri lavoratori, quindi chi lavora in ufficio deve avere lo schermo, delle precauzioni o degli, magari degli strumenti per diciamo, diminuire questo tipo di possibilità di danno. Ecco. Christian, immagino sia stato un po' colpito da questo disturbo 2.0 che di cui si sta parlando anche nei giornali, è la WhatsAppite, e ce la facciamo raccontare dalla dottoressa Simonetto Della. Beh, sicuramente l'utilizzo di tutti questi dispositivi che implicano l'uso delle dita e delle mani così frequentemente, nel lungo termine possono portare ad avere delle infiammazioni dei nostri tendini, i flessori sicuramente, che ci servono per piegare le dita e quindi per digitare sopra queste tastiere, ma anche il pollice sicuramente, che è il dito più coinvolto nelle azioni nostre quotidiane, perché ci serve per afferrare gli oggetti, per svitare i tappi delle bottiglie, insomma per fare tutti quei gesti che implicano l'afferrare un oggetto, sicuramente il pollice è il dito più sollecitato durante la nostra gestualità, e in questo caso colpisce non soltanto il flessore ma anche il primo canale degli estensori, e quindi l'estensore breve e l'abduttore lungo, che sono quei tendini che ci servono per intenderci, per fare il gesto dell'ok con il pollice. Perfetto, mi piace perché la dottoressa Della ci dà i termini tecnici come ma nello stesso tempo li traduce. Sì. Dottoressa Della, il nostro amico Christian chiedeva giustamente se c'è una sorta di prevenzione, e io immagino che in qualche modo si possa paragonare a quello che sempre voi medici suggerite per tenere un po' in forma le nostre articolazioni e contrastare i problemi della sedentarietà. Infatti ortopedici, fisiatri, medici dello sport suggeriscono di cambiare spesso posizione, soprattutto per le persone che stanno sedute a lungo. Allo stesso modo le persone che, come Christian, utilizzano molto le mani, ma non pensiamo solo alle persone che rimangono collegate e chattano, ma anche alle persone che svolgono dei lavori manuali, pensiamo, ormai sono quasi sparite, ma pensiamo alle ricamatrici o alle tante persone che svolgono lavori domestici. Dottoressa Della, si può fare un po' di prevenzione? C'è una sorta di ginnastica, stretching anche per l'articolazione delle nostre mani? Ma sì, sicuramente possiamo fare un po' di ginnastica al risveglio, al mattino, possiamo prendere una bacinella con dell'acqua tiepida, un po' di sale, se abbiamo le articolazioni che sono irrigidite dalla notte, dal non uso, quindi dall'immobilizzazione notturna, un po' di gonfiore che è tipico durante il periodo della notte, soprattutto se non abbiamo più 20 anni, fare un po' di ginnastica con una pallina di gomma piuma in una bacinella d'acqua tiepida e sale sicuramente può aiutare a rimettere in moto la circolazione e a rendere più elastiche le nostre articolazioni. Questo è la mattina. La sera invece, dopo una lunga giornata di lavoro dove magari abbiamo a lungo utilizzato le nostre mani, il ghiaccio può essere il nostro amico, perché il ghiaccio sicuramente ha un effetto antinfiammatorio, riduce la tumefazione, e quindi fare degli impacchi di ghiaccio a cicli di 20 minuti prima di andare a riposare può aiutarci, sempre però con un panno di tessuto interposto tra la cute della mano e il ghiaccio, altrimenti rischiamo le ustioni, perché anche il ghiaccio può ustionare la pelle. Infatti il ghiaccio cuoce, quindi dottoressa Della, fresco alla sera, tiepido al mattino. Sì, è meglio così, e sempre vale il solito principio, cercare di non mantenere la postura per periodi troppo prolungati, quindi cercare di sciogliere le nostre articolazioni, di muovere le dita delle mani, e chiaramente la migliore della prevenzione sarebbe quella di non abusare delle nostre strutture tendine, delle nostre articolazioni. Delle fasi di riposo sicuramente sono necessarie. Abbiamo adesso la domanda di Giancarlo da Novara, però Nicoletta, la osservazione di Roberto da Udine non ce la possiamo far scappare, mi pare che tu non l'abbia letta. No, l'ho letta tra me e me, perché... Sapete che cos'è la WhatsAppite? Dice Roberto, non so, non me ne intendo, e lui... Abbiamo l'applauso a disposizione, non ce l'abbiamo, ma adesso glielo facciamo virtualmente, andiamo a sentire. Perché è andato a ripescare la Nintendite, anche la console ha dato dei disturbi simili, naturalmente non è il problema della console, ma è dell'uso smodato, un po' compulsivo ne facciamo. Giancarlo, buongiorno. Giancarlo, che buongiorno. Ha il dolore ai pollicioni. Sì, complimenti, siete fantastiche. Grazie. A entrambi i pollicioni da diverso tempo, ormai ci convivo. Alla base dei pollici io ho perennemente un dolore. Ma com'è questo dolore? Perché sa che i medici vogliono saperne sempre di più. Un dolore, vi do un esempio. Se dovessi tenere in mano e giocare a carte, mi rimano delle carte, quindi con il pollice e le altre dita, dopo un po' devo posare perché la base del pollice mi fa male. Esatto. Pollice, quindi con le mani sinistra, ma entrambi sarebbe con la mano destra. Allora. Quello è. Quello è, dice Giancarlo. Dottoressa Odella, noi spesso ci dimentichiamo che il pollice, che usiamo ormai con grande disinvoltura per digitare i messaggi, è il dito da cui dipende la funzionalità della mano. E quando si infiamma sono dolori, ma non solo perché ci fa male, ma perché in qualche modo interferisce sui movimenti. Giancarlo ci parlava di un gesto molto semplice, tenere in mano delle carte. Tenere in mano le carte è un gesto molto semplice, ma lo possiamo fare solo perché il pollice ci permette il movimento dell'opposizione, certo. Ed è l'unica delle cinque dita che ce lo consente. Bisognerebbe sapere da Giancarlo se il suo dolore è nella regione alla base del pollice, nella regione palmare, sì. O se invece è nella regione dorsale, perché sono delle strutture anatomiche differenti che possono causare un dolore simile. Quindi all'interno o all'esterno? Non sappiamo se abbiamo ancora Giancarlo da Novara in linea. Sì? Sono in linea. Ok, ma noi vogliamo sapere sia del dolore nella sia nella parte palmare. Nella zona palmare, quindi dentro è alla mano. Nella zona palmare. Allora, probabilmente è dovuta ad un'infiammazione del tendine flessore, potrebbe avere una tenosinovite di questo tendine, che è quello che fa sì che il pollice si pieghi, si fletta verso le altre dita, e bisogna, probabilmente, se non ha ancora uno scatto quando esegue la flessione del pollice, è una fase iniziale, una tendinite iniziale, un'infiammazione quindi che si può ancora risolvere con degli antinfiammatori, del ghiaccio e del riposo. 800 24 00 24, parliamo sempre di pollice e ci aiuta a farlo anche una chiamata di Alfonso. Alfonso, buongiorno. Buongiorno perché... Nicoletta. Buongiorno Alfonso. Saluto anche Debora e la professoressa, dottoressa Odella. Ma che vedo, come ha preso nota di tutto Alfonso. Bravo. Sì, perché qui se no i nomi, poi io lavoro... a contatto con molte persone, se non mi segno qualche cosa, ma Nicoletta e Debora, dai. Bravo, sono nel suo cuore. Alfonso, allora, andiamo a noi. Il signor Giancarlo, prima di me, ha introdotto un argomento per il quale io mi sento molto vicino. Anche a me è qualche anno che avverto questo dolore alla base del pollice e varie radiografie hanno messo in evidenza una forma artrosica abbastanza consistente. Mi hanno parlato di rizoartrosi del pollice. Volevo sapere, volevo intanto dalla dottoressa Odella qualche chiarimento in più cos'è, sì. Su cos'è questa rizoartrosi. Bravo. E cosa si può fare. Grazie. E cosa si può fare, nonostante uomo, dottoressa Odella, perché il problema della rizoartrosi è un problema tipicamente femminile. Ma quante ne sa. Ecco, Alfonso vuole in qualche modo venire un pochino a capire qual è l'origine di questo problema e soprattutto che cosa si può fare. Iniziamo a descriverlo, la rizoartrosi è l'artrosi alla base del pollice, lo traduco così. Del pollice, ecco. Sì, ed esattamente la traduzione dal greco, da rizossa, la radice del pollice, abbiamo l'artrosi. È l'artrosi dell'articolazione trapezio-metacarpale, che è l'articolazione che ci permette proprio il gesto di opposizione del pollice. È vero, tipicamente colpisce più le donne che non gli uomini, o comunque le persone che hanno dei lavori manuali, sì. O delle persone che hanno un trapezio che è l'osso più piccolo, diciamo al di sotto del primo metacarpale, con una forma che già predispone all'insorgenza di questo tipo di degenerazione. Perché l'artrosi non è altro che un invecchiamento, una degenerazione articolare di per sé non patologico, diviene patologico quando è doloroso e quando ci limita nelle nostre funzioni quotidiane. Effettivamente la rizoartrosi è altamente invalidante perché ci limita nei nostri gesti di tutti i giorni, anche solo aprire e chiudere la porta di casa con le chiavi o aprire un barattolo, proprio i gesti quotidiani che dobbiamo fare tutti i giorni. Ed è molto dolorosa. Ci sono diverse fasi, ci sono delle fasi acute in cui la base del nostro pollice è gonfia, arrossata e dolente, e ci sono delle fasi invece quiescenti dove per fortuna questa sintomatologia ci dà un po' di tregua. E ci dà un po' di tregua, sì. Ci sono delle terapie per arrestare questo processo? Allora, terapie per arrestare il processo purtroppo non ce n'è perché è un invecchiamento articolare, ma abbiamo delle terapie per cercare di ridurre l'infiammazione nelle fasi acute e per cercare di rallentare l'invecchiamento articolare. Quali sono? Ma dunque, i presidi più semplici sono ancora una volta il ghiaccio prima di andare a dormire, un tutore particolare da usare durante la notte che si chiama Rizzo Splint. Già l'immobilizzare l'articolazione in una posizione di riposo durante la notte ci aiuta a ridurne l'affaticamento. Se queste cure conservative non fossero sufficienti, il passo successivo potrebbe essere il trattamento infiltrativo proprio con l'acido ialuronico. Di cui lei faceva riferimento, io glielo suggerivo per la gola e lei invece ce lo suggerisce per le nostre articolazioni. Esattamente, sì. E che vantaggi dà l'acido ialuronico? È una sorta di oliatura alle articolazioni? Ma sì, possiamo dire anche questo, che è un olio del motore. L'acido ialuronico è normalmente presente nello spazio articolare. Quando si ha un processo artrosico, l'infiammazione, il liquido infiammatorio, diluisce e degenera questa sostanza normalmente presente nello spazio articolare. Non facciamo altro che andare a rimetterlo dall'esterno. Ha tantissime funzioni, ha un effetto lubrificante, quindi sì, di olio del motore, quindi facilita l'articolarità, lo scivolamento dei capi ossei uno rispetto all'altro. Ha un effetto antinfiammatorio, per cui riduce la tumefazione, riduce il dolore, e ha anche la capacità di nutrire la cartilagine residua e di rallentare quindi l'invecchiamento articolare. Senta, ma dottoressa Odella, fa tutte queste cose, ma avrà dei limiti, degli effetti collaterali, delle... Gli effetti collaterali fortunatamente sono bassissimi, abbiamo sicuramente il dolore durante l'infiltrazione, eseguire queste infiltrazioni è abbastanza complesso perché lo spazio articolare è molto ridotto, quindi bisogna entrare in modo molto preciso nello spazio tra le due ossa, ed è doloroso perché non tanto per la puntura quanto perché è un liquido vischioso e quindi distende la capsula articolare, mette in azione i meccanocettori e stimola in questo modo la sensazione dolorosa, ma è un dolore che per fortuna dura poco. Un altro effetto collaterale potrebbe essere il richiamo di liquidi temporaneamente e quindi un po' di tumefazione e un po' di dolore nelle 48 ore successive all'infiltrazione, ma devo dire che altri effetti collaterali importanti non ce n'è, perlomeno il peso molecolare che noi utilizziamo per le rizoartrosi. Allora, 80024, ma dottoressa Odella, ma questa WhatsAppite è tanto diffusa, in tanti vengono da lei a farsi diagnosticare questo disturbo, questo problema? Ma dunque, come WhatsAppite no, devo dire la verità. Diciamo che non è proprio un termine scientifico. No, non ancora. È stato descritto su Lancet da un ortopedico, che è un collega della dottoressa Odella, spagnolo, che ha dovuto in qualche modo curare, diagnosticare, definire questo problema accusato da una signora che mandava un sacco di messaggi. Allora, Simone d'Arezzo. Simone dalla provincia di Arezzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Io ho chiamato per quando ho sentito parlare di scatti del pollice. Sì. Io ho lo stesso problema, ma al medio della mano destra. La mattina risveglio, il dito va a scatti quando provo a piegarlo, poi durante il giorno passa e tutto funziona regolarmente. Quindi un deve prendere un pochino il ritmo. Dottoressa, ma il dito a scatto potrebbe essere un effetto collaterale della tecnologia, dato che oggi abbiamo legato il benessere delle nostre mani e anche il loro malessere proprio all'utilizzo un po' compulsivo dei dispositivi elettronici? Eh sì, potrebbe essere, perché è un sovraccarico funzionale che noi diamo ai nostri tendini flessori delle dita delle mani. Sicuramente in altri tempi questo tipo di sovraccarico non c'era. E effettivamente si può arrivare ad avere delle infiammazioni tali per cui si arriva ad avere lo scatto. Il dito scatta perché la guaina del tendine flessore è imbibita di liquido infiammatorio e non ha più lo spazio per scorrere al di sotto del ponte di fibre che si chiama troclea alla base delle dita. Ecco perché scatta, perché non ha più lo spazio di scorrimento ed è tipico del mattino, proprio perché di notte... Cosa si può fare, dato che noi siamo in chiusura e devo dire il nostro centralino ha ricevuto tantissime telefonate e non abbiamo neanche nominato il tunnel carpale, per cui torneremo e anche sulla dipendenza da internet col professor Mencacci faremo una finestra sulla pagina di Cuore Denari. Dottoressa Odella, dito a scatto, che faccio? ghiaccio e riposo sicuramente, se non fosse sufficiente si possono fare delle infiltrazioni col del cortisone nei pazienti che non sono diabetici e non hanno la pressione alta, e se anche con questa terapia non fosse possibile risolvere c'è sempre un trattamento chirurgico ambulatoriale. Ambulatoriale, no, perché sennò sembra chirurgica che si taglia il dito e tutti via così. Si spaventano. Grazie un po'. Dottoressa Della per essere grazie. Stata con noi, buonissima grazie giornata. A voi, grazie Nicoletta. Altrettanto. Noi torniamo in diretta con Cuore e Denari domani, grazie a Paolo Corleoni per l'assistenza tecnica, Marco Lombardo, Laura Vanossi, i nostri angeli custodi. Io torno al mio quartiere allegato, cara Nicoletta. E via. E io se no ti vengo poi a prendere in gondola. In canoa. In canoa, a domani. Dai. A domani. Cuore e Denari.